Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. La nostra promessa è quello di raccontare attraverso fatti di cronaca che avvengono in Italia e nel resto del mondo il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 744, parleremo di una candidata statunitense repubblicana che ha apertamente confessato in un libro autobiografico di aver ucciso a fucilate il suo cane, di una ricerca scientifica che ha cercato il motivo della moria di massa che sta colpendo i salmoni allevati e che sembra avere un nesso con le condizioni in cui vengono allevati. Davide Celli, figlio del noto etologo Giorgio Celli, ha espresso un parallelismo tra le stragi nazifasciste e le stragi di gatti odierne nel suo paese Monzuno. E poi per la parte culturale presentiamo il progetto dei Troglodita Tribe, Cresco antispecista. E vi proponiamo un intervento degli autori che ci spiegano le loro motivazioni, quale bisogno va a soddisfare questo nuovo progetto, come funziona e come farlo funzionare in futuro. La ricetta vegana, ammerregana e il sound sono curati da Gabriele Palloni, Vegan Chef. Speriamo di avervi incuriosito. Candidata repubblicana Kristi Noem, governatrice del South Dakota negli Stati Uniti e che possiede un ranch con molti animali, ha raccontato disinvoltamente di avere ucciso il suo cane sparandogli per quelle che lei ritiene motivazioni condivisibili. Non le è sfuggito durante una sbronza, lo ha messo proprio nero su bianco nel libro intitolato Non si torna indietro, la verità su cosa c'è di sbagliato nella politica e su come far progredire l'America. Questo orrore ha quindi passato vari livelli di controllo e verifica, a partire da quello degli editor della casa editrice che ha pubblicato il libro. Amiamo gli animali, ha dichiarato sui social Noem, ma decisioni difficili come questa capitano sempre in una fattoria. Purtroppo, poche settimane fa abbiamo dovuto abbattere 3 cavalli che appartenevano alla nostra famiglia da 25 anni. Insomma, secondo Kristi Noem, se vuoi avere una fattoria, devi avere un bel pelo sullo stomaco. Il pensiero va a quella famiglia di allevatori svizzeri a cui è stata dedicata la copertina del settimanale internazionale qualche settimana fa. Una famiglia che ha deciso di smettere di uccidere animali trasformandosi in agricoltori vegani. Che distanza tra questi personaggi. La senatrice Noem considerava Cricket, un pointer a pelo corto di 14 mesi, non addestrabile per la caccia al fagiano a causa del suo carattere riottoso. Il cane, infatti, non si lasciava coercire docilmente. Noem scrive: odiavo quel cane. E poi descrive come sparò a Cricket e anche a una capra in una cava di ghiaia. La capra dovette essere colpita 2 volte, scrive Noem, perché dopo il primo colpo non era ancora morta. E così la governatrice ha dovuto andare al suo camion per ricaricare il fucile e concludere il lavoro. Possiamo solo immaginare quanto abbia sofferto la povera capra. Noem dice che fare quello che ha fatto non era piacevole e descrive come le sue azioni abbiano spaventato una squadra di costruttori e anche confuso la sua figlia piccola. Sembra anche riconoscere i possibili effetti dell'inserimento della storia nel suo libro, quando scrive: «Credo che se fossi un politico migliore non racconterei la storia qui». E noi davvero pensiamo che Kristi Noem faccia parte di quella folta schiera dei politici peggiori attualmente in circolazione nel mondo. Spostiamoci verso est, verso Norvegia, Canada, Regno Unito, dove uno studio pubblicato su Nature nel marzo 2024 denuncia la mortalità di massa di salmoni, i cui decessi sono aumentati in frequenza tra il 2012 e il 2022. In Scozia, nel 2024, più di 17 milioni di salmoni allevati sono morti. È il numero più alto mai registrato in quel paese. Ma altri paesi hanno registrato una mortalità ancora maggiore. La Norvegia ha dichiarato che quasi il 17% dei suoi pesci d'allevamento è morto improvvisamente nel 2023. Per fare luce su queste morti, i ricercatori hanno esaminato i dati dei paesi che hanno prodotto il 92% del salmone d'allevamento nell'ultimo decennio e hanno trovato 865 milioni di casi di morte prematura di salmoni d'allevamento nel periodo indagato, con una frequenza delle morie aumentata nel tempo per Norvegia, Canada e Regno Unito. Secondo gli autori, le morie non sono solo aumentate come frequenza, ma anche come numero di animali morti. La ricerca stima che le perdite per ogni singolo evento di mortalità di massa siano di 5,14 milioni di pesci in Norvegia, 5,05 milioni in Canada e più di un milione nel Regno Unito. Il riscaldamento del clima e quindi l'aumento della temperatura delle acque sta giocando sicuramente un ruolo importante, ma anche le condizioni degli allevamenti, che sono sempre più, tra virgolette, ottimizzate, con crescente dipendenza dalla tecnologia, come telecamere subacquee e gestione basata su intelligenza artificiale, che evidentemente non funzionano per rendere meno tragica la condizione di vita di questi animali allevati. A noi verrebbe da dire, ma guarda, chi l'avrebbe mai detto? Sia chiaro, noi qui non crediamo alle favolette dell'allevamento sostenibile. Per noi questo è un ossimoro, perché privare della libertà un animale è un atto violento che non può che generare enormi sofferenze. Ma abbiamo argomenti su altri piani, perché gli allevamenti sono oggettivamente portatori di devastazioni ambientali, diffondono malattie e fanno grande uso di farmaci e ormoni. E a proposito di autoliberazioni, un argomento che è sempre stato a noi molto caro, ci sentiamo alleati e alleate dei 3.500 salmoni che sono evasi, cioè fuggiti dai recinti, nel 2023, da una delle più grandi aziende di allevamento d'Islanda, di proprietà del gigante norvegese Mowi. Una fuga che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'intera biodiversità, così è stato annunciato nel 2023. I salmoni fuggiti, essendo salmoni allevati e pertanto diversi, potrebbero compromettere gravemente la capacità dei selvatici di riprodursi naturalmente. La prole, cioè, potrebbe ereditare tratti inadatti alla sopravvivenza in natura, minacciando così il futuro della popolazione del salmone selvatico. Nei fiumi del nord-est dell'Irlanda, dove sono stati ritrovati dai pescatori, questi salmoni sono risultati poi ricoperti di pidocchi di mare, un parassita che può essere letale per i pesci selvatici. Mettiamo in fila queste informazioni. In sostanza, gli allevamenti di salmone mettono a repentaglio la riproduzione, perché i salmoni allevati sono dei mostri che non hanno niente a che fare con l'ambiente circostante e sono ricoperti di parassiti letali per i pesci selvatici. Servono altre motivazioni per valutare gli allevamenti? Questa fuga non è la prima. Nel 2022 un'altra azienda di allevamento di salmone, Arnalax, che sostiene di utilizzare metodi di acquacoltura sostenibili e naturali, tra molte virgolette, è stata multata con 705.000 sterline per non aver segnalato una fuga di 81.000 pesci nel 2021. Insomma, gli allevamenti di salmone sono ambientalmente insostenibili, oltre ad essere una vera agonia per questi animali, che non hanno più nulla di naturale, sono dei mostri, sono creati artificialmente per creare profitto e dunque non dovrebbero esistere. Credo che ci sia un filo rosso che lega l'eccidio di Marzabotto agli eccidi di gatti che ogni giorno sono perpetrati nel nostro paese. Questa frase durissima l'ha pronunciata in un consiglio comunale il 28 aprile scorso Davide Celli, consigliere comunale dei Verdi a Bologna e figlio del più noto etologo Giorgio Celli, grande conoscitore e amante degli animali che fu anche europarlamentare e conduttore TV. Celli ha voluto fare un parallelo tra la strage compiuta dai nazifascisti sulle colline bolognesi, Monzuno, il suo paese di residenza, è solo uno dei molti luoghi che furono teatro di violenti e spietati eccidi durante la ritirata tedesca lungo la linea gotica, e quella in corso ai danni dei felini. In entrambi i casi, dice Celli, il comune denominatore è la violenza perpetrata sui più deboli. Da tempo l'esponente dei Verdi denuncia sparizioni di gatti nel paesino dove vive, sull'Appennino. Ma anche quelle che sarebbero in corso in molte altre parti del nostro paese, specialmente Ravenna e Forlì, dove, denuncia Celli, si pratica la caccia al gatto e, sempre secondo Celli, seguirebbero inquietanti e assai assortite forme di tortura. Nel suo intervento in consiglio comunale, Celli parla di catture con i lacci e di forme di tortura, evidenze che sarebbero il risultato delle sue molte ricerche. Fin dal principio, infatti, quando tra Vado di Monzuno e La Gardelletta, località nel territorio di Marzabotto, sono scomparsi circa una trentina di gatti nel giro di qualche settimana, Celli cercò di organizzare meticolose ricerche per individuare le ragioni di queste sparizioni, approntando addirittura un questionario da somministrare ai proprietari dei gatti. È un parallelo quello tra la violenza nazifascista e le violenze che vengono compiute sugli animali da millenni, niente affatto peregrino. Perché, come sostiene Celli, la violenza sugli animali è consentita unicamente dai sistemi violenti e spietati che vengono utilizzati da noi umani. Se si pensa al modo in cui gli animali cercano disperatamente di conquistare la libertà e fuggono ogni volta possibile dagli allevamenti, dai camion, dai macelli, dai laboratori di sperimentazione, addirittura dalle navi che trasportano animali da carne a scopo commerciale, in fondo, la nostra supremazia nei loro confronti non è altro che un abuso di potere, frutto di un incessante studio di mezzi di contenzione, guinzagli, catene, gabbie, lucchetti, fruste, speroni, taser, tonfa, pistole captive, strumenti senza i quali il nostro dominio sul resto del vivente si dissolverebbe come neve al sole. Quindi solidarietà al consigliere Davide Celli, ai gatti di tutto il mondo e un abbraccio a tutte le famiglie che sono state vittima del rapimento di un gatto. Chi ci è passato sa quanto si soffra. Domenica 28 aprile l'Inter ha vinto il 20° scudetto e Milano è stata inondata da una folla festante. Si parla di 350.000 tifosi nerazzurri che hanno scortato i pullman scoperti con staff e giocatori da San Siro fino a Piazza Duomo. Nel corso di questa indimenticabile parata non poteva mancare un animale ridotto a feticcio e umiliato. Quando toccò al Napoli fu la volta di un povero asino. Quest'anno i tifosi dell'Inter hanno portato in piazza una mucca, sì, una mucca colorata di nero-azzurro e portata davanti alla sede milanese dell'Inter in Viale della Liberazione, con i nomi di alcuni giocatori scritti sul corpo con bombolette spray. Purtroppo le foto e i filmati che sono girati su questo tristissimo episodio mostrano decine di persone intente a guardare divertite, a scattare foto coi telefonini. La storia ci insegna che quando si umilia qualcuno, un essere vivente, a vario titolo considerato inferiore, è molto raro che qualcuno alzi la voce chiedendo pietà e umanità. Più facilmente si ridacchia, ci si dà di gomito e ci si rende di fatto complici del misfatto. Accadeva così, per esempio, durante l'ascesa del nazismo. Venivano fatti inginocchiare per strada attivisti, socialisti, sindacalisti, persone ebree, venivano percossi, umiliati in vario modo, magari chiedendo loro di lavare il pavimento, costringendoli a ballare o a fare flessioni. E le persone per strada non levavano la loro voce per protestare, per dire che era ingiusto, disumano e orribile. Al tempo tutti rimasero in silenzio, a guardare o ridendo nervosamente, e la loro semplice presenza li rese complici. And on Mike, Gambone. And on Mike, Gambone. And on Mike, Gambone. And on Mike, the lovely, the lovely Cher. Okay, Mike. Ma i filmati e le foto della mucca umiliata dagli interisti si sono diffuse in rete e non sono sfuggite alle associazioni animaliste che si sono attivate per denunciare il triste episodio. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l'OIPA, ha affermato che è possibile configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e che anche dal punto di vista amministrativo si tratta di una fattispecie sanzionabile. OIPA ha poi annunciato di aver presentato denuncia alla Procura di Milano, di aver chiesto ai garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche e ha chiesto formalmente alle forze dell'ordine se il conduttore è stato identificato e se sono state inflitte sanzioni per questo sfregio. Così come è accaduto lo scorso anno, quando un asino è stato dipinto con i colori del Napoli e fatto sfilare in strada. Allo stesso modo, questo episodio è un abuso nei confronti dei poveri animali, ridotti a vessillo, mortificati e umiliati. Noi ci uniamo ad OIPA nella denuncia di questo abominio perché condividiamo parola per parola tutto quello che hanno affermato. Adesso per la parte culturale diamo la parola a Troglodita Tribe e al loro progetto Cresco Antispecista. Per promuovere la liberazione animale tra le giovani e giovanissime generazioni è nato Cresco Antispecista. Come sappiamo, l'immagine degli animali viene banalizzata e annullata nella sua vera essenza sin dall'alba dei primi libri e giochi per l'infanzia. È qui che troviamo animali che guidano automobili, che indossano vestiti, che vanno a scuola o in ufficio. È qui che troviamo animali ridotti a macchiette e puntualmente usati come simboli che rappresentano virtù e vizi platealmente umani. Oppure animali rappresentati secondo i soliti e proverbiali luoghi comuni, come quelli del lupo cattivo, del cane fedele servitore o dell'asino ignorante e disobbediente, che nel loro insieme restituiscono un'immagine falsata e distorta, un'immagine decisamente allineata alle demenziali pubblicità caratterizzate da maialini felici di essere affettati e mucche considerate mere macchine da latte che accettiamo con indifferenza da adulti. L'intento di Cresco antispecista è quello di operare attivamente affinché questi scenari che formano il nostro immaginario vengano finalmente considerati obsoleti e sostituiti da una nuova generazione di favole, racconti, giochi, giocattoli, grafiche e filastrocche in grado di restituire l'identità e la dignità rubata agli animali. Crediamo infatti che la grande difficoltà che si incontra durante la sensibilizzazione e il boicottaggio delle dominanti normalità in cui anneghiamo non siano dovute alla mancanza di empatia o alla presunta inferiorità etica e morale del nostro prossimo, ma più verosimilmente al continuo e inarrestabile perpetuarsi delle narrazioni che raccontano, mitizzano, cantano e diffondono l'oppressione animale umana sin dall'infanzia. Sono queste le ragioni che hanno spinto alcuni scrittori, artiste del riciclo, grafici, illustratrici antispeciste a unirsi per scrivere, disegnare, produrre e diffondere giochi e giocattoli che, pur essendo pensati per bimbi e bimbe, abbiano un approccio orientato alla liberazione e alla resistenza animale, che diffondano un messaggio basato sulla pace e il rispetto di ogni individuo, a prescindere dalla specie di appartenenza. La formula scelta è quella del benefit in favore dei rifugi antispecisti per animali liberati. I proventi delle vendite di questi giochi, giocattoli, libri, eccetera, saranno quindi interamente devoluti ai rifugi, quelli che si attivano anche politicamente diffondendo una visione antispecista a tutto tondo. Consideriamo infatti questa nostra attività creativa come una forma di attivismo e quindi del tutto volontaria e senza alcun fine di lucro. Quando il rifugio non ha la possibilità di anticipare le spese vive, in genere tipografiche o artigianali, per la realizzazione dei singoli progetti, il benefit procede con la formula della prenotazione. Apriamo insieme al rifugio una campagna che mostra il libro, il gioco, il giocattolo, dando la possibilità di preordinarlo fino a quando non si raggiunge la cifra necessaria alla sua realizzazione. Il primo gioco che abbiamo realizzato si intitola Il gioco dell'oca libera. Abbiamo scelto di iniziare questo percorso liberando un'oca che attendeva da secoli. Funziona come il classico gioco dell'oca, ma le caselle raccontano una storia completamente diversa. In quella, per esempio, dello Zobio Parco, torno indietro perché, come viene spiegato, non è bello divertirsi guardando animali prigionieri. Oppure può capitare nella casella 18, illustrata con maialini, bimbi e bimbe che corrono fuori da un recinto e a quel punto tutti i giocatori rinchiusi sono liberi. Lungo il percorso si incontrano circhi, acquari, laboratori, ma anche cani da adottare e non comprare e cacciatori da scacciare dai boschi. Quando qualcuno riesce a fermarsi nell'ultima casella, rappresentata da una bellissima oca che prende il volo, il gioco termina. E tutti gridano a gran voce: oca libera! Lo scopo infatti non è vincere, ma liberare l'oca. Il gioco dell'oca libera, illustrato dal magnifico Antonio Capone, è già in vendita presso il rifugio antispecista Ippoasi, che ha accettato con entusiasmo di aprire questo entusiasmante percorso creativo di liberazione totale, che parte dal basso, dall'inizio, ovvero dai più piccoli e dalle più piccole. E siamo davvero felici perché, ci dicono, il gioco dell'oca libera sta già riscuotendo un notevole successo. Potete quindi prenotarlo cercando Ippoasi su Facebook e Instagram. Sarà un modo originale e divertente sia per sostenere il lavoro di Cresco antispecista che per sostenere Ippoasi, uno dei primi e storici rifugi antispecisti in Italia. Naturalmente siamo sempre alla ricerca di altre artiviste e artivisti che abbiano il desiderio di unirsi a Cresco antispecista, disegnando, scrivendo, cucendo, inventando giochi e giocattoli insieme a noi. Ci trovate sulla pagina Facebook Cresco antispecista. Troglodita Tribe sono autori di alcuni interessanti libri antispecisti, Tra questi vi consigliamo Cani e catene, La fattoria infelice, È tempo di mordere e Il cane incontrò il quartiere, tutti recensiti nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Cheers. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be mine. Think I better dance now. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta della settimana vegan cruelty free agli Stati Uniti, naturalmente agli Stati Uniti che ci piacciono, quelli senza derivati animali. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questa settimana la ricetta di un famoso street food born in the USA, per rendere omaggio al povero Cricket, la cui unica colpa è stata quella di incontrare quel grandissimo pezzo di governatrice del South Dakota. Gli ingredienti per 4 persone per il vegan corn dog sono, per i wurstel vegetali, 200 g di lenticchie rosse essiccate, uno spicchio di aglio, una cipolla, 40 g di fecola di patate, 40 g di amido di mais, 50 g di pan grattato, 50 g di barbabietola rossa cotta, un cucchiaino di paprika affumicata e il sale. Per la pastella 100 g di farina di tipo 0, 50 g di farina di ceci, un pizzico di curcuma in polvere, sale e olio per friggere. Sciacquate le lenticchie rosse e lasciatele in ammollo in abbondante acqua per almeno un'ora. Quindi scolatele e mettetele in un mixer da crude assieme all'aglio, la cipolla, le barbe rosse, la paprika affumicata. Frullate il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Solo se necessario aggiungete pochissima acqua. Versate l'impasto in una bulla e unite la fecola, l'amido di mais e il pan grattato. Mescolate bene il tutto con una spatola, aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare e insaporire per 15 minuti. Versate il composto in un foglio di alluminio spennellati di olio e arrotolateli dando una forma cilindrica, stretta e lunga. Chiudete piegando le estremità facendo attenzione poiché l'impasto da crudo risulterà abbastanza morbido. Sistemate in una teglia e fate cuocere a forno a 160 gradi per circa 40 minuti. Quindi togliete dal forno e lasciate raffreddare. Nel frattempo preparate una pastella con la farina zero e quella di ceci, stemperandole con acqua fino ad ottenere una crema liscia e densa. Unite un pizzico di sale e uno di curcuma. Infilzate i wurstel con uno stecco di legno. Inzuppateli nella pastella facendo scolare quella in eccesso. Friggete in immersione in olio ben caldo fino a doratura. Fate asciugare su carta per frittura e servite con mayo veg e ketchup. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Thank God it's Friday! The story is true. You got a lot of repressed feelings, don't you, Friday? Don't you, Friday? You got a lot of repressed feelings, don't you, Friday? Don't you, Friday? Don't you, Friday? Must be what keeps your hair up. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 745 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde.